Benvenuto su Logosfere, sei uno degli organizzatori del festival Kicking and Screaming. Come è andata questa prima edizione? Sono stati tanti tutto esaurito? Raccontaci. Sì, è stato molto molto bene. È stato tutti gli eventi sono pieno. Un sorpresa per noi, perché prima, all'inizio, abbiamo pensato che forse 20-30 persone per ogni evento. Allora, abbiamo avuto 100, 150, è stato bellissimo per noi. Allora, Immagino. Qual è stato il film più apprezzato? secondo me, penso il film francese, il film Ah. Les yeux dans les bleus, perché è un film molto, molto serio. E alla fine la Francia hanno vinto il mondiale. Allora è un film con molto emozione. E non c'era nessun film che parlasse di calcio italiano. E come mai? Non c'erano film interessanti? Non... No, abbiamo chiesto per il film L'allenatore nel pallone. Ah, sì? Sì, e abbiamo avuto un locale, un posto, ma alla fine l'azienda a Roma, chi ha il film, Non vi ha dato poi il film. Ho sì, niente aiuto capito. per noi. E non lo so perché. E anche perché sono stato a Roma prima a maggio, il secondo settimana di maggio, e è stato strano perché ho chiamato e lei ha detto, sì, forse, non lo so, forse no. È così, Ho strano. capito. Ma aspetta, Dimmi, perché dimmi. ma Sì. oggi stamattina il mio co-organizer Rachel ha detto che c'è un altro film qui, L'uomo in più, Ah, forse? sì, non in più. Sì, Sì, di ok. Sorrentino. Lo stesso, come si dice, director in italiano? Regista. Regista, lo stesso regista del Divo, Esatto, sì. no? Sì, Paolo allora. Sorrentino. E Rachel stamattina ha detto che vuole avere questo film. Ok, per il prossimo anno. Anche perché il regista è fantastico, non lo so. Eh sì, diciamo, sicuramente meglio dell'altro film che volevate dare quest'anno. Sì. E anche lei ha detto: It would be awesome to have a great Italian film. Eh sì, un gran film. Sì. Novità, qualche idea? Sì, allora adesso abbiamo un programma per un festival a Washington DC in ottobre. AOL, America Online, un'azienda grande per l'internet qui, ci ha chiamati, sì, per avere una sponsorship. Per Ottimo. un Kicking and Screaming Washington DC in ottobre. Questo primo. Dopo abbiamo un Kicking and Screaming Forza Sudafrica in marzo. E non lo so, forse Milano. Quando vuoi. Speriamo, speriamo.